benvenute e benvenuti. Io sono Monica Marco della Biblioteca Claudio Augusta. Vi saluto da parte di tutta la biblioteca, anche da parte della direttrice, che in questo momento non è qui, però vi saluta. Come al solito vi parlerò delle prossime iniziative. Domani già avremo la presentazione del libro Nella terra delle Dolomiti, due olandesi tra i monti di corallo, 1884-1887. Sono due olandesi, due diari di due olandesi che appunto alla fine dell'Ottocento hanno viaggiato nelle Dolomiti e hanno fatto questi diari. Il curatore è Maurizio Casagrande e sarà qui con noi domani pomeriggio in biblioteca. E poi un appuntamento speciale perché c'è la festa del ventennale della biblioteca, lunedì prossimo, il 21 ottobre, in questa sala. Vi aspettiamo, venite, si parlerà della biblioteca, di cosa è successo in questi vent'anni. La biblioteca, come sapete, è una biblioteca diciamo reale, con i libri visibili, quotidiani, le riviste, periodici, eccetera. E poi c'è anche la biblioteca virtuale, la biblioteca che viene a casa vostra, BiblioWeb, lo conoscete molti sicuramente. Lunedì 21. Lunedì 21, esatto, tra una settimana. E vi aspettiamo, vi ricordo però che BiblioWeb, appunto, ho parlato di questo per ricordarvi che tra breve, ai primi di novembre, cominceranno di nuovo i corsi per accedere a questo portale, da cui si possono scaricare gli ebooks, leggere i quotidiani, tantissime lingue, e quindi se volete venire con Fabio farete questo corso per accedere a questo portale. Bene, con questo io ho finito per la biblioteca, invece ho il piacere di presentarvi, e naturalmente è un grande ritorno, Ada Zapperi Zucker, accompagnata da Fabio Zamboni, la presentazione del libro che vi diranno loro, io taccio su questo, e le letture saranno di Alessandra Limetti. Vi auguro una buona, un buon ascolto e un saluto di nuovo. Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro con Ada Zapperi Zucker. A lei non benvenuta ma bentornata, perché ritorna appunto al Centro Trevi dove è stata più volte a presentare i suoi libri, con un romanzo intitolato Una vita di donna in Sicilia, che eventualmente alla fine... Scusi, lì c'è l'altro parlante, le dispiace, volevo già dire da lei. E è un po' un problema perché ne abbiamo uno, se poi cercherò di alzare... Alzo la voce, perché poi sarebbe un problema se la nostra lettrice rimane senza microfono. E dicevo che è tornata con questo libro Una vita di donna in Sicilia, edito come sempre da Verlag Honegged, al quale auguriamo sempre di cambiare almeno una parte del nome. Non ha capito. E questo è il decimo libro che Ada Zapperi Zucker stampa in lingua italiana, il quindicesimo e il sedicesimo, compresi quelli proposti in due lingue, che sono un capitolo a parte molto interessante della sua produzione, che serve appunto anche, oltre che al piacere di leggere, anche a quello di coltivare e imparare le due lingue, italiano e tedesco. Ci accompagna, come altre volte volentieri, Alessandra Limetti, attrice e vocologa di professione, quindi abbiamo anche la possibilità di approfondire alcuni passi di questo nuovo libro, poi con alcune letture. La storia è quella di una famiglia siciliana che Ada Zapperi ha conosciuto sul serio, e quindi è una storia vera che lei ha romanzato, come usa fare solitamente, parte da uno spunto di vita vera, vissuta, conosciuta, per poi rielaborarla e aggiungere chiaramente anche della fantasia, se no sarebbe cronaca e non letteratura. Lei in realtà ha conosciuto uno dei protagonisti di questo libro, Nello, al quale il libro è dedicato e che è coprotagonista assieme ad Elena, la donna di Sicilia appunto a cui il titolo fa riferimento. Un personaggio che lei ha conosciuto a Roma quando da Catania, originari entrambi di Catania, sia la scrittrice sia il protagonista, si trasferisce a Roma per avviare i suoi studi di canto lirico. Come sapete, Ada Zapperi Zucker ha avuto una importante carriera di cantante lirica ed ora un'altrettanto importante carriera di docente di canto lirico, oltre ad una fortunata anche carriera di scrittrice. Ecco, questo libro, come altri suoi, ha avuto una genesi particolare, e cioè è stato scritto molti anni fa, Questo in particolare precisamente nel 91, quindi 18 anni fa. Nel 2002. 91 ancora ero una bambina. Avevi già riempito un armadio di libri, giusto? E quindi scritto nel 2002 e poi messo in un cassetto insieme a tanti altri libri, tanti altri manoscritti, che ogni tanto Ada recupera e rilancia. Allora, la prima cosa curiosa che vogliamo sapere è come è accaduto che questo libro è finito per anni in un cassetto e come mai proprio lui è stato riesumato e rilanciato con questo titolo. Allora, in ogni caso, buonasera, vi ringrazio molto di essere venuti. Per me è sempre un momento di grande agitazione, come quando si è in teatro, si guarda attraverso un buco del sipario per vedere se c'è gente. Magari il teatro è venduto fino all'ultimo posto, però gli artisti, i cantanti e tutte le persone di teatro hanno sempre soltanto il problema: e verrà gente? E questo è anche il mio problema, che è rimasto dopo, non so, 40 anni di esistenza senza teatro, però il problema resta lo stesso: verrà gente? Quindi vi sono molto molto grata di essere venuti. Questo è il primo, quello che voglio dire. Ma la cosa più interessante del mio modo di fare letteratura è che appunto alla fine degli anni 90, ecco perché ho detto nel 91 ancora dipingevo, perché io ho molte esistenze come ognuno di noi. Noi abbiamo tante esistenze, tutto dipende di separarle l'uno dalle altre, non continuare tutte uguali. Le ho cambiate tante e quindi ho cominciato a scrivere. Il momento di scrittura per me è stato come una specie di un fiume in piena che straripa da tutte le parti. Questo lo vedo adesso a distanza di 20 anni, sono adesso veramente 20 anni che scrivo, che è stato veramente un fiume che è esploso e ho scritto una quantità veramente incredibile di racconti, di romanzi, eccetera. Li ho messi tutti quanti giù, li ho buttati e li ho infilati, per modo di dire, in un cassetto, perché in realtà il cassetto è un computer, questo lo dico. Io sono molto grata, arriva un signore al quale io devo tantissimo, è il mio traduttore in lingua italiana. Sono molto molto felice che sia venuto. Benvenuto. Scusi tanto, scusate, ma ci sono cose che non posso, sono una persona molto impulsiva, questo l'avete capito. Allora, continuando questo discorso, questi racconti sono rimasti da una parte e man mano che il tempo passa li riguardo, li riaggiusto, li riscrivo, li rimetto a posto e possono passare molti anni, anche 20 anni, fino a quando un libro trovo che sia maturo per essere pubblicato. Questa è la storia. Perché proprio quello hai ripescato? Ce ne sono altri, ho altri due romanzi che non ho ancora ripreso, perché a un certo punto ho sentito che era arrivato il momento. È una questione che non si può spiegare. C'è distinto, è qualcosa di è arrivato il momento di pubblicare questo romanzo. Certo. Abbiamo detto che i protagonisti della storia sono due fratelli che si odiano. Perlomeno uno odia il maschio, odia la femmina più piccola, e quindi una storia di angherie anche. E intorno a loro i due genitori. C'è un padre, un uomo integerrimo e maschilista, che tra l'altro è orgoglioso del suo passato fascista, e una piccola donna troppo giovane e troppo indifesa per poter cambiare le sorti di questa famiglia e per poter gestire anche e difendere i figli da questo rapporto malato che si è creato al loro interno. E la storia è piuttosto articolata, ma quella che io ritengo una dote importante di Ada Zapperi è lo scavo psicologico dei personaggi, il modo in cui riesce ad entrare e a farci capire come loro pensano. Annuisce il traduttore. Probabilmente è stato difficile tradurre quello. Lui mi conosce meglio di me. Una volta ha detto che mi conosce meglio di mio marito. È veramente formidabile, perché lui conosce soprattutto i miei pensieri più intimi, cose che mio marito naturalmente non sa. Figuriamoci, che gliene importa lui. Ecco, quindi la domanda è questa: cioè, più che una saga familiare, perché succedono anche molte cose, il libro è anche un pretesto per analizzare certi comportamenti. Certamente. questo è questo scavo psicologico. Questo qui, secondo me, è il fine della letteratura, cioè raccontare un fatto, diciamo che in 5 righe si può raccontare una storia. E basta, i fatti di per sé si trovano, scusa tanto, senza offesa, su un giornale. Ma la letteratura ha un altro fine fondamentale, quello di presentare delle persone e delle situazioni nelle quali noi possiamo veramente rispecchiarci tutti, ogni giorno. Ecco perché i miei racconti o i miei romanzi o quello come vogliamo dirli, sono una parte di me, in realtà ci sono io in ogni parola, in ogni rigo, anche se io non sono un uomo, però oppure non sono quella donna che descrivo, però chiaramente mi devo identificare con quella persona per poterla descrivere. Non è possibile che io scriva di una persona senza entrare dentro quella persona. Questo qui è questa è la forma e devo dire subito che questo l'ho imparato dalla musica. Mi sembrerà molto strano, ma quando si canta o quando si suona anche, perché ho studiato più di 15 anni pianoforte, io ho fatto gli studi normali di una pianista, cioè quando si entra a confronto con un compositore, come con un pittore che manca, gli darò una mazzata in testa, cioè è un confronto veramente con la personalità che sta dietro le parole, dietro le note, chi era Verdi, per esempio, tanto per dire un nome che conoscete tutti, chi era Verdi, lo vedo in ogni nota che ha scritto, in ogni composizione che lui ha scritto, perché cerco, cioè ho imparato, devo dire grazie ai miei importanti insegnanti, ho avuto degli insegnanti veramente molto importanti, che mi hanno insegnato a penetrare nella musica, quindi anche nella letteratura, e identificarmi. Questa è la forma dell'interpretazione, sia musicale che anche letteraria. Noi interpretiamo una persona nel momento stesso in cui ci infiliamo in quella persona. Spero di essere stata chiara. Allora vediamo di conoscere Nello, uno dei protagonisti, attraverso la lettura che Alessandra ci propone, anzi due letture. Nella prima c'è un ritratto di questo fratello che odia la sorellina, e poi invece conosciamo lui in base al suo rapporto con il padre. Lui è protagonista di un feroce attacco al padre e al suo passato fascista. Nello aveva 4 anni più di lei ed era alto, sempre insopportabilmente più alto di lei e prepotente. La trattava sempre con sufficienza, se non proprio con disprezzo. Fin dalla nascita l'aveva considerata un'intrusa, una venuta chissà da dove che bisognava rimandare subito al mittente. Varie volte aveva dichiarato alla madre di essere pronto a farlo. Lui stesso si sarebbe incaricato della restituzione. Inutili i tentativi della madre e della nonna di convincerlo ad amare la sorellina. Al contrario, il suo fastidio cresceva ogni giorno di più e spesso aveva manifestato il desiderio di buttarla in mare. Era da lì che era venuta, continuava a ripetere, ed era lì che bisognava riportarla, e sfogava la sua rabbia pizzicandola di nascosto o facendole ogni sorta di dispetti. Appena la sentiva strillare, socchiudeva gli occhi soddisfatto, ghignando di piacere. Col passare degli anni non cambiò niente. A 7 anni, per farla piangere, le sussurrava all'orecchio «Femmina!». Quasi si trattasse di un'oscenità, di un insulto. Bastava il modo con cui pronunciava quella parola per capire quanto risentimento, quanta ripugnanza avesse accumulato contro la sorella. Lei, benché assai piccola, ne percepiva il senso. D'altra parte, qualsiasi parola le avesse detto sarebbe stata interpretata allo stesso modo. Era l'odio irriducibile e ingiustificato a ferirla, e bastava uno sguardo, un qualcosa bisbigliato all'orecchio come una schizzata di veleno per farla scoppiare in lacrime. «Ora corri dalla mamma, femmina!» sibilava quando, trovando una scusa qualsiasi, finiva col picchiarla. Non passava mai accanto a lei senza urtarla o darle un pizzicotto da lasciare il segno, con l'aria più innocente del mondo. Perché lo faceva? La madre si sentiva impotente davanti a quella fredda determinazione. Alle sue domande negava sempre, anzi protestava di venir sempre accusato per colpe inesistenti che Elena si inventava solo per danneggiarlo. Negava anche davanti ai lividi, alle piccole ferite sul viso, ai pianti della bambina. Diceva che se li era procurati da sola. Ma ciò che più spaventava la madre era una sorta di sadismo che assai presto si era manifestato. Una gioia malsana gli faceva brillare gli occhi ogni volta che vedeva soffrire la sorella, i suoi compagni di giochi e perfino la madre stessa. Era un godere cattivo, privo di gioia. Sembrava essere eroso da un astio che lo divorava come una malattia. E del bambino malato aveva l'aspetto, magro, deperito fino alle ossa, giallognolo, gli occhi stravolti, quasi febbricitanti. La madre, una donna semplice, di cultura assai limitata, non riusciva a spiegare nemmeno a se stessa il senso di quella negatività. Non era in grado di gettare uno sguardo sulla realtà che si celava dietro ogni provocazione del bambino e del ragazzo in seguito. Mai le venne il sospetto che dietro a quella maschera di cattiveria, di cinismo, si celasse un vuoto, un abisso di solitudine, di infelicità sconvolgente. In ogni sua azione non c'era altro che una richiesta di aiuto, un grido di allarme, un desiderio inconscio di amore, solo di amore. In generale, l'ora dei pasti dava motivo a scontri sempre spiacevoli fra padre e figlio. Le due donne cercavano di farsi piccine più di quanto non lo fossero in realtà, e se avessero potuto, si sarebbero dileguate. Questo accadeva solitamente di domenica, dato che per il resto della settimana Nello, da quando andava all'università, usciva la mattina e non tornava mai prima di mezzanotte. Non sopportava le domande del padre sul procedere dei suoi studi e, in generale, non sopportava la sua presenza. Una volta, fra un boccone e l'altro, senza neanche guardarlo né voler dare importanza alla cosa, aveva buttato lì: a proposito, ce l'hai ancora la tessera? Che tessera? La tessera del Partito Fascista. Come impiegato statale avevi il dovere di iscriverti al partito, o sbaglio? L'hai buttata via o la conservi per ricordo? Il padre si fece paonazzo. Un figlio non ha il diritto di giudicare l'operato del genitore. E perché no? Quale legge lo proibisce? Nello aveva continuato a mangiare senza lasciarsi impressionare dalla voce autoritaria del padre. La madre si era fatta velocemente il segno della croce mentre Elena aveva cominciato a sparecchiare, benché non avessero finito di mangiare. Il padre non aveva trovato una risposta, tanto si sentiva soffocare. E Nello, alzando il viso dal piatto, aveva fissato due occhi gelidi negli occhi corrucciati del suo nemico. Perché proprio i figli non possono giudicare i genitori? E chi dovrebbe farlo, secondo te? Gli altri come te? Gli altri padri e correi? Il padre si era alzato, buttando furiosamente il tovagliolo sul tavolo, e senza proferire parola era uscito dalla stanza. Nello aveva continuato a mangiare senza neanche seguirlo con gli occhi. Ma tutto il suo corpo emanava qualcosa di odioso, di estremamente sgradevole, trasudava letteralmente odio. La madre, le lacrime agli occhi, non aveva osato fiatare. Solo Elena, tornando dalla cucina, accesa in volto, tutta fremente d'ira, aveva sputato a terra, proprio davanti a lui. «Grazie per la bella domenica che ancora una volta sei stato bravo a regalarci!» Nello non la degnò neanche di uno sguardo. Già da ragazzino alle elementari aveva cominciato a odiare il padre. Si era sentito tradito da lui, umiliato. Aveva scoperto che il padre in tribunale svolgeva un ruolo secondario rispetto a quello del giudice, mentre tutto il suo atteggiamento, il suo modo di vestire, l'esagerato rispetto della madre e l'importanza di tutto il suo procedere lasciava supporre una posizione molto più elevata del giudice stesso. In realtà, fino ad allora, fino agli 8-9 anni, aveva posto il padre su un piedistallo. Anche lui, come la madre, lo aveva considerato un grand'uomo. Ricordava a volte con rabbia come si era vantato a scuola suo padre, cancelliere di tribunale, era superiore al padre di un compagno che era soltanto avvocato. Quel ragazzino lì per lì non aveva saputo reagire, ma il giorno seguente era tornato a scuola con aria trionfante, anzi, sembrava dovesse scoppiare, tanta era la gioia di poterlo finalmente svergognare davanti a tutta la classe. Lui, quel giorno, avrebbe preferito essere pestato, picchiato, bastonato da tutti i compagni messi insieme, piuttosto che sopportare quella vergogna. Ma c'è anche un po' di azione, non solo psicologia. Comunque questo secondo passo solleva un tema forte, cioè quello del nazismo, del fascismo, ma anche e soprattutto quello della rimozione di entrambi, che in Germania è stata una cosa magari un po' tardiva ma efficace, in Italia ne stiamo ancora discutendo, no? E un tema che ha avuto un notevole rilievo anche in altri romanzi, in questo in particolare. Come ritieni di averlo svolto? Ma questo romanzo si svolge, cioè queste scene avvengono negli anni 50, quindi siamo proprio molto vicini al dopoguerra. La ferita è ancora calda. Sì, è molto calda la questione. E allora veramente il problema della rimozione non esisteva, cioè si chiudevano gli occhi su fatti, perfino sulle macerie che si vedevano ancora per le strade. Ecco perché ho voluto mettere un pochino più l'accento su questo fattore. Ma la cosa che più mi interessava, dunque, io devo subito dire un fatto molto importante. Io ho conosciuto personalmente questo Nello. L'ho conosciuto quando avevo 13 anni e l'ho conosciuto fino a quando sono partita dall'Italia. Cioè per 10 anni io ho incontrato questo ragazzo, questo uomo sempre così, sempre negativo, e ho cercato di capire già allora, mi faceva paura e mi attirava, era un rapporto molto strano, per quale motivo una persona diventa così negativa, per quale motivo un uomo o una donna è pieno di odio, e questo romanzo l'ho scritto proprio per lui, anche se il titolo è Una donna, la vita di una donna, in realtà è molto condizionata dalla vita di un uomo, del fratello, del padre, questo almeno in Sicilia degli anni 50. Adesso io metto le mani avanti, non so come sia cambiata la situazione, però io so che allora effettivamente una donna era un'appendice proprio femmina, secondo, proprio una persona di secondo grado, di valore molto minore. Ecco perché ho voluto veramente scrivere questo libro allora, che fu il mio primo romanzo, continuo a ripeterlo, prima del silenzio, che questo signore conosce molto bene, perché in realtà è il tema, devo dire, anche della mia vita. Cioè il fatto di essere donna mi ha messo in una condizione di vedere il mondo con altri occhi che non se, per esempio, fossi stato un uomo, questo è chiaro. La mia visione del mondo è purtroppo condizionata dalla posizione dell'uomo. Cioè l'uomo non mi ha dato spazio. Ho dovuto lottare tutta la vita, l'infanzia, eccetera. Io ho avuto 4 o 5 fratelli. Lasciamo perdere i miei fratelli. Ad ogni modo, lasciamo perdere anche il padre. Cioè questo essere donna, femmina, significato sempre tu non conti niente. Mettiti da parte che quello che dici non è importante. E questo fatto mi ha costretto, veramente costretto, a scrivere questo libro per cercare di capire per quale motivo un uomo si comporta così con una donna. Devo dire, ammettere che non l'ho ancora capito. No, mi dispiace doverlo dire. Non ho capito. Come dice? Viene dalla tradizione. È la tradizione, mannaggia la miseria. No, perché a un certo punto bisogna anche liberarsi da certi schemi. Ma il fatto è questo, che io vedo questi uomini ancora oggi, se voglio parlare del tema fondamentale in questi ultimi anni, quello che si chiama adesso con un termine nuovo, femminicidio, c'è questo disprezzo dell'uomo nei confronti della donna in tutte le situazioni. Devo dire, e questa è una grande confessione che vi faccio, che tante volte penso io, ma che credi di essere, sei soltanto una donna? Questa è l'educazione che ho ricevuto, benché la mia famiglia fosse molto liberale, e devo ancora dire che mia madre ebbe 5 figli maschi e c'era sempre un nuovo tentativo perché voleva la figlia femmina. Cioè anche mio padre, non è che io sono arrivata in una famiglia dove le femmine venivano messe da parte. Con tutto ciò ho sentito dalla società, non soltanto siciliana, ma a Roma, dovunque, ma anche a Vienna, ma anche a Monaco, dovunque, in realtà la posizione della donna è sempre un gradino più sotto di quello dell'uomo, e non è importante se quest'uomo sia un grande uomo, può anche essere l'ultimo stracione che sta per strada, che chiede l'elemosina e ti guarda con disprezzo. Signora, posso? Prego! Magari verso la fine facciamo le domande così. No, questa è una provocazione, lo so. Io sono la provocazione in persona. No, questo mi preme, io da siciliano. Oh mamma mia! Io non la conosco molto bene perché abbiamo avuto occasione anche a la ringrazio. Eccetera. Però non le credi che sia fuori tempo parlare di un fatto avvenuto 70 anni fa? No, non c'è niente, mi scusi se la interrompo, già questa frase mi basta. Noi viviamo del nostro passato e non del futuro, che non sappiamo cos'è. E il nostro presente è formato dal nostro passato. Non possiamo ignorarlo. Prego, signora. Io sono nata a Pesina, nata, vissuta, tutto, miste lingue, tutto. Ho sposato il siciliano. Di quello che lei ha detto e scritto nel libro, nei miei 50 o più viaggi in Sicilia non mi sono mai accorta. È una donna molto fortunata. Sono sempre stata circondata da un tale affetto, da un tale tutto al positivo. Va bene, tutto questo è molto soggettivo. Chiudiamo. Torniamo al libro. No, va bene. Signora, mi porti pazienza. Allora, noi continuiamo la presentazione. Anche perché già devo bacchettare Ada che mi è uscita dal tema, quindi mi ha già rubato una risposta per la domanda successiva. Ma io non volevo prendere. No. Questa si chiama letteratura però, Chiudiamo. Andiamo avanti. Passiamo alle femmine allora. Elena. Elena, che è la protagonista del titolo, addirittura, schiacciata in casa da questi due personaggi, il fratello e il padre, non riceve amore e quindi non sa dare amore al punto che non lo riconosce nemmeno quando questo amore arriva. Allora adesso arriviamo a leggere un passo interessante che è quello di lei che scopre l'amore, ma su questo, cioè su questa mancanza di amore che lei vive, ci racconti qualcosa ancora? Certamente, perché l'amore è qualcosa che si impara, non è qualcosa che nasce insieme a noi. Noi veniamo al mondo e la prima cosa che cerchiamo è vivere. E questo, la madre non ama il bambino, gli dà la vita, cerca di farlo sopravvivere. Poi man mano nasce pure l'amore, però se la madre, ma ci sono anche delle madri che non amano, e questo bisogna anche accettarlo. Non è vero che tutta la vita è fatta di rose, ci sono anche delle madri che non accettano i propri figli. E allora questo per esempio è il caso di questa famiglia dove la madre era concentrata soltanto sul padre. Lei era veramente innamorata dal primo al momento all'ultimo in quest'uomo ed era cieca per tutto il resto, quindi non è stata capace di dare amore a questi figli, sia il maschio che la femmina. E questi bambini non hanno imparato cos'è l'amore. L'amore si impara come si impara la lingua, si imparano tutte le cose, non si nasce sapendo le cose. Allora vediamo come Elena scopre l'amore in maniera rocambolesca. Nel 56 Elena diede gli esami dell'ottavo anno. Adesso la casa era silenziosa, dopo il martirio di 6-8 ore di esercitazioni al pianoforte, senza contare le lezioni che aveva continuato a dare ai bambini del vicinato. Era stremata e prima di iniziare la preparazione per il diploma, il maestro le aveva ordinato una pausa di almeno un mese, non tralasciando però un'ora di tecnica al giorno per non arrugginirsi. Fu un'estate calda, come tutte le estati in Sicilia. La domenica gli amici di Nello venivano per fare una gita in barca. Nuotavano al largo, mangiavano qualche panino portato da casa e si divertivano a molestare le ragazze sulla spiaggia con scherzi più o meno innocenti. Elena, come la maggior parte delle persone che vivono sulla costa, non sapeva nuotare e si rifiutava sempre di andare con loro in barca. Se ne stava sulla spiaggia a prendere il sole e quando il caldo si faceva insopportabile si bagnava per rinfrescarsi, ma dove l'acqua non era profonda. Solo una volta lo pregò di portarla in barca insieme agli altri. Nello, piuttosto contrariato, dato che non vedeva volentieri la sorella in compagnia dei suoi amici e non volendosi esporre allo sfottò dei ragazzi, col solito sorriso sarcastico la invitò. «Vieni, vieni, che ti insegno a nuotare!» E appena fu in barca, con un gesto deciso del braccio la buttò in acqua. Ci fu un momento di attesa. Poi uno di loro, senza riflettere, saltò giù e andò a ripescarla. Il fratello, più che mai irritato, assisté gelido, inerte, all'operazione di salvataggio. «Sempre la solita stupida!» fu il solo commento. Pietro, il ragazzo che l'aveva tirata fuori dall'acqua, mezzo boccheggiante, le propose subito di riportarla a riva. Ancora stordita, terrorizzata, Elena annuì senza poter parlare. Aggrappata alle spalle del ragazzo, turbato a sua volta dal contatto di quel corpo già di donna, dopo qualche minuto si ritrovò su uno scoglio, a riva, ancora incapace di capire che cosa le era accaduto. Nello, sempre più invelenito, si voltò dall'altra parte per non vedere quella scena penosa. Pietro cominciò a trovarsi per caso di passaggio sempre nelle prime ore del pomeriggio dalle parti di Ognina. Timidissimo bussava alla porta chiedendo notizie di Elena, quasi si trattasse di una malata, e dopo ripetuti inviti della madre entrava e veniva ricevuto nella stanza da pranzo. Era la stanza più luminosa della casa, calda d'inverno e fresca d'estate. Una grande finestra dava sul mare. Era bello vedere ogni giorno la linea dell'orizzonte, avere l'illusione che oltre quella linea ci fosse il nulla, o meglio un precipizio, un abisso senza fondo, un vuoto assoluto, fatto solo di cielo. Come avete già capito e come sempre nelle storie di Ada Zapperi, le donne sono protagoniste assolute, si distinguono nei romanzi, nei suoi racconti. In questo romanzo però c'è un momento in cui la morte di Nello sgombera il campo, appunto, e lascia protagoniste due donne, e cioè Elena, di cui vi ho parlato, e la compagna del fratello, che lei non ha mai conosciuto. Si ritrovano a Milano in occasione appunto della scomparsa del fratello e questo incontro dà vita a un dialogo su vari temi che è veramente sorprendente. Ma quante cose possono dirsi due donne che non si erano incontrate fino a 5 minuti prima? Moltissime cose. Senza pudore. Questa senza... è una delle cose che ho sperimentato io personalmente. Ho fatto moltissimi viaggi nella mia vita e in treno persone che ho incontrato e che non ho mai più visto, donne soprattutto, mi hanno raccontato tutta la loro vita, ma anche delle cose veramente che normalmente non si raccontano neanche a una persona amica o della famiglia. Cioè è il momento in cui ci si apre e poi ci si richiude. Questa è una delle cose più affascinanti che credo possono fare soltanto le donne, perché le donne hanno una capacità di trasmissione di emotività che pochi uomini hanno, alcuni ce l'hanno per fortuna, non voglio sempre essere contro gli uomini, non è vero, e che faremmo noi donne senza questi uomini, bisogna pure dirlo. Però questa capacità di comunicazione che hanno le donne, anche se non si conoscono, sanno veramente, e questa è una delle cose più belle, che hanno veramente imparato le donne nel giro dei migliaia di anni, quello di sentire questa, quella che si chiama, non so se è un termine italiano, sorellanza, questo di sentire la comunicazione è un'altra come me, anche se è completamente diversa da me, però ha più o meno le mie stesse prospettive di vita, le mie visioni di vita e la realtà. Veramente, ecco perché queste due donne si incontrano, non si conoscono e stanno tutta la notte a parlare. Facciamo un esempio. Dopodiché non si vedono più. Facciamo un esempio. Sì, benissimo. Si sedettero nei posti di prima. Nessuna delle due osava iniziare a mangiare. Dopo un momento di imbarazzo, Vera si alzò con decisione. Vuoi vedere tutta la casa? Andarono prima nella stanza di Nello. Le pareti erano completamente coperte da scaffali traboccanti di libri. Non c'era posto per un solo quadro. Una vecchia scrivania da una parte, una brandina con le coperte ancora in disordine dove chiaramente aveva passato la sua ultima notte, una poltrona, anch'essa piuttosto male in arnese, accanto alla finestra. Un tappeto persiano copriva il parquet. Elena si guardò intorno, cercando il fratello, e lo trovò attraverso i libri vecchi della loro adolescenza. Ecco i racconti di Chekhov, ne riconobbe subito la copertina, e tutti gli altri. Partendo, si era portato dietro una valigia piena di libri, l'unico pezzo di passato che aveva considerato degno di girare il mondo insieme a lui. Cautamente Elena ne tirò fuori qualcuno dallo scaffale. Vera subito. Se li vuoi, prendili. Anzi, è bene che tu lo sappia. Tutto quello che c'è in questa casa appartiene ora a te. Io non ho nessun diritto. Elena la interruppe. Non ci pensare nemmeno. Sono io qui a non avere diritti. Io non voglio niente. Ma se non ti dispiace, vorrei riportare a casa qualcuno di questi libri. Sono parte della mia vita. Passarono nella stanza di Vera. Elena quasi non voleva entrare, una sorta di imbarazzo la costrinse a fermarsi davanti alla porta. La stanza era piena zeppa di carte, libri ammucchiati sul pavimento, sulle sedie, riviste, giornali, le pareti letteralmente tappezzate da poster di vari colori, copertine di riviste, fotografie. Elena sbalordì di quel disordine. Oggetti vari buttati sul pavimento, vestiti, calze, scarpe, carte, libri, tutto mescolato insieme, un caos. Da una parte un letto, disfatto, solitario. Rimase senza parole. Vera indovinò i suoi pensieri e un po' si vergognò, poi alzando le spalle. «E questa sono io», disse. Tornarono in sala. Un altro pianeta. Un desiderio di sentimenti o forse il trionfo della razionalità. Dopo aver inghiottito qualche boccone, Elena non poté trattenersi. Non dormivano neanche nella stessa stanza, non avevano visto un letto matrimoniale. Era sconcertata. Ma avevate qualcosa in comune voi due? Nel vostro rapporto c'era anche quello che si chiama amore. Vera non ebbe alcuna reazione, non si meravigliò, ma lasciò passare qualche minuto prima di rispondere. Ma che cosa significa amore? È una parola fin troppo strapazzata. Si ama un gatto, un paio di scarpe, un certo colore, un paesaggio. Io ho vissuto insieme a lui per ben 12 anni e non mi sono mai chiesta niente. Sicuramente gli voglio bene, molto bene. Anzi, è la parte più importante della mia vita. È una parte di me, è l'altro me stessa. Non so come definire il sentimento che mi ha sempre legato a lui. Forse è anche amore. Ma chissà che cosa si nasconde sotto questa parola. Io non mi pongo domande di questo genere e non mi interessa saperlo. Tacco un momento. Adesso mi chiedo solo come farò a vivere senza di lui. Io ho sempre avuto bisogno di lui, non so se lui di me, ma non sono mai stata innamorata di lui. Questo lo so con sicurezza. Mi ha sempre affascinato. Per me è sempre stato un privilegio potergli stare accanto, abitare nella stessa casa, trovarlo la sera, qui sapere di essere la sua donna. Si interruppe. Un nodo le serrò la gola. Beve un sorso di tè e cercò di inghiottire le lacrime che le erano salite. Dire che legge veramente molto bene, quasi non mi riconosco. Bravo. Ecco, in una storia di tante piccole e grandi solitudini, perché quelle mi sembrano le vere protagoniste della storia, le due donne arrivano a parlare di un tema delicato, dei figli che non hanno avuto e che, riflette Elena nel racconto, sono forse l'unica vera eredità che possiamo davvero lasciare. È una riflessione più di Elena o più di Ada Zapperi? Io ripeto quello che ho detto fin dall'inizio. Queste parole che ha letto lei le ho scritte io, nel senso che ci sono io dietro e non un'altra persona. Io mi sono identificata naturalmente sia con Vera che con Elena, ma anche stranamente con Nello e anche col padre e anche con la madre, altrimenti non avrei potuto descriverli. Dunque il pensiero dei figli è come l'unico modo di prolungamento della vita, questo qui è una cosa abbastanza banale che sanno tutti. Io però parto da un altro principio: noi abbiamo due modi di prolungare la nostra vita, che in fondo è il desiderio di ogni essere umano. C'è il modo fisiologico, quello di mettere al mondo dei figli, ma c'è anche un altro modo al quale credo tantissimo. Io devo dire che ho due figli, quindi non è che sia una senza figli. C'è il modo spirituale, c'è l'eredità spirituale, c'è il proseguimento spirituale. E questo qui come si può avere? Io ho insegnato 40 anni, ho una quantità di allievi e so che vivrò attraverso loro quando non ci sarò più, perché nel momento stesso in cui produrranno un suono, ci sono io lì dietro. E questa è una cosa bellissima. Io sono, devo dire, sono meramente una donna fortunata ad avere questa professione. Però non soltanto con questo, noi possiamo, non soltanto col canto, possiamo dare la nostra eredità spirituale. Anche qualsiasi altro lavoro, se lo facciamo con passione, con tutto il nostro interesse, sempre c'è un proseguimento. Non è vero che finisce tutto lì. Perfino il contadino, quando lui sapa la terra, lui prosegue attraverso la terra, lui non muore mai. La terra produce quello che lui ha iniziato, cioè non è soltanto una questione intellettuale quella che voglio dire, il nostro modo di proseguire oltre la morte, che in fondo è il capolinea. Però questo capolinea c'è un proseguimento di un altro genere, cioè attraverso i figli, giustamente, ma attraverso il nostro interesse e le nostre attività. È per questo che noi siamo ancora qui. Vediamo come ce l'hai raccontato. Come ce l'ha raccontato lei. Questo tema dei figli. Vera rispettò quel silenzio. Non sapeva cosa vi stesse dietro. La conosceva appena. Ma le era piaciuta. Sapeva ascoltare. E non era poco. Le piaceva anche la sua voce rotonda, morbida, il tono cantilenante con una strana cadenza levantina, un italiano con vocali aperte, strisciate, che le ricordava vagamente il Nello di molti anni prima. La lunga permanenza al nord aveva cancellato in lui ogni traccia dialettale. Elena, riemergendo da un improvviso assopimento, sentì la bocca formare delle parole, poche parole, che si concretizzarono quasi senza la sua partecipazione. Una domanda. Anche questa volta si chiese, perplessa, come avesse potuto formulare quella frase. Chi gliene avesse dato il diritto? Perché non avete avuto figli? Vera, anche lei assorta fino a quel momento, sussultò. Lo sguardo dritto di Elena non le lasciava via d'uscita. Ebbe l'impulso di difendersi, quasi fosse stata accusata di qualcosa, ma si riprese subito. Non lo so. E si chiuse in un lungo silenzio. Elena aspettò qualche minuto. Scusa questa indiscrezione, niente mi dà il diritto di conoscere particolari della vostra vita intima. Ti prego di perdonarmi. Vera si scosse. No, no, non ti scusare. È giusto che tu voglia sapere. In fondo si tratta di tuo fratello. Anni fa, quando la nostra situazione finanziaria cominciava a stabilizzarsi, accadde qualcosa. Ci eravamo dati appuntamento per vedere dei quadri. Nello voleva comprarne uno e non sapeva decidere. Non posso dimenticare quel pomeriggio, perché la visita nell'atelier fu un fallimento. Io ero distratta, lui improvvisamente negativo, sarcastico, credo che abbia perfino maltrattato il pittore con i suoi commenti. Io non vidi niente, ero assente. Venendo dal pittore, eravamo passati attraverso un parco. Un gruppetto di bambini ci era venuto incontro correndo. Inseguivano una palla. Nello, con un improvviso salto di lato, assestò un colpo alla palla mandandola dall'altra parte della piazzetta. I bambini gridarono entusiasti e corsero all'inseguimento. Io non sapevo che sapesse adoperare i piedi in quel modo, che potesse essere tanto agile. Già allora era ingrassato molto. Restammo un momento fermi a osservarli. Nello poi mi guardò. Mi guardò solo, senza dire una parola. E nei suoi occhi lessi una richiesta chiara, precisa. Era la prima volta. Io mi sentii sopraffatta, fui presa dal panico, non so spiegarti, mi sentii braccata. Lui vide il mio viso e gli bastò. Non toccò mai più il tema dei bambini. Ma io continuai a pensarci a lungo, a tormentarmi. Sapevo di non avere più tanto tempo. Avrei dovuto cambiare tutto, praticamente cedere le armi, rinunciare alla mia vita, alla mia professione, diventare solo madre e moglie. Adesso mi rendo conto della mia immaturità, della mia assoluta mancanza di coraggio. Ci vuole coraggio a mettere al mondo dei figli, coraggio, forza e chissà, una buona dose di incoscienza. Come vedi, non ho avuto né l'uno né l'altro. Fece una pausa. A volte penso che sia necessaria anche una grande dose di amore. Evidentemente non possiedo neanche questo. Tacque sopra pensiero. Un figlio avrebbe smussato molti angoli del suo carattere, chissà, forse lo avrebbe riconciliato con la vita. Attraverso il suo bambino avrebbe conosciuto un'infanzia come lui probabilmente non ha avuto. Sono tutte parole inutili. Lo so, si pensa sempre di avere tempo, un tempo infinito. Improvvisamente non resta più niente. Si chiuse in un silenzio desolato. Finalmente Elena si mosse. Doveva prendere il primo aereo. Era stata una lunga notte e l'alba sbiancava già i vetri delle due finestre. Adesso dobbiamo dire che c'è una bella novità nella carriera letteraria di Ada Zapperi Zucker, perché a dicembre leggeremo non un libro di Ada Zapperi Zucker, ma un libro su Ada Zapperi Zucker, un ricercatore dell'Università di Vienna, uno studioso italiano che si chiama Remo Castellini, che lavora al Dipartimento di Letteratura Italiana, uscirà a dicembre con un saggio intitolato La Sicilia da lontano, raccontando la sua avventura letteraria. E, insomma, è diventata un caso. Oh, mamma e quindi mia. La domanda è: che effetto fa? Che effetto un grande fa effetto essere studiata? Da... No, mi ha colpito profondamente, mi ha sconvolto, devo dire, perché subito ho pensato, tu donna cosa vuoi? Questa è l'educazione che mi porto dietro le spalle con tutto quello che lotto e lotto, però dentro c'è una vocina cattiva che mi dice non dimenticare che sei una donna, una femmina. È un giovane che viene a mi scrive, io la prima cosa che gli ho chiesto, ma lei dove, come mi conosce? Ah, ho i miei informatori. Perché io sono rimasta fulminata, ho avuto bisogno di 2 mesi per riprendermi, lo devo dire. Adesso vediamo un po' cosa scriverà di me. Mi spaventa già il pensiero. Bene, prima dell'ultima domanda, così vi do il tempo eventualmente se qualcuno ha una domanda poi da fare pertinente magari al libro, se qualcuno l'ha letto, altrimenti un secondo. Lo spazio per le domande. No, un momento per favore. Chiudiamo la, questo incontro, poi ha la facoltà di fare una domanda o anche due, non c'è problema. La domanda è invece il prossimo libro di Ada Zapperi. Sarà un romanzo epistolare, mi dicevi. Sì, è una cosa molto molto strana che è nata circa un anno fa quando una mia amica storica calabrese mi scrisse più o meno della mia età, cioè la mia stessa età, la stessa generazione, ah, sono in un momento molto difficile, non so cosa devo fare, sempre queste ricerche di archivio eccetera, ti verrebbe un'idea di fare qualche cosa insieme? E io, come i soliti colpi di fulmine che mi sono molto conosciuti, che conosco molto bene me, ho detto sì, perché no, scriviamoci delle lettere. E così è nato questo qui, dal titolo Noi due donne del Sud. È uno scambio di 12 lettere, perché lo volevo anche limitarlo, su tutto quello che è stato, lei scrive sulle sue ricerche, della scoperta per esempio nel 500 credo di una donna che fu uccisa dai fratelli perché scriveva a un uomo, cose di questo genere, cioè tutto in realtà in ogni lettera c'è un racconto, devo dire che ha affascinato me e lei in un modo estremo perché è venuto fuori una cosa incredibile, tutta la storia praticamente degli ultimi 60 anni in Europa, in Italia, la guerra, tutto quello che è successo nel 500, nel 200, cioè lei essendo storica, oppure le mie esperienze musicali, io che vado a teatro e le racconto quello che ho visto, quello che ho ascoltato, eccetera. Quindi è una cosa abbastanza nuova, devo dire. Lo ammetto, abbiamo tirato fuori delle cose incredibili. Con due punti di vista. Lei è vissuta importante. In un paese di, credo, 5.000 abitanti e io nel mondo. Però siamo tutti e due, abbiamo le stesse radici. Siamo tutti e due del sud. Questa è una cosa molto importante. Se qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda. Fino a quando si rimane donna del sud? Sempre, tutta la vita, chiaramente, è chiaro. Possibile? E come no, lo vede anche a me, io sono rimasta una donna del sud perché abbia vissuto dal 61 che non vivo né nel sud né in Italia, però quello che c'è dentro è dentro, cioè noi viviamo di quello che è il nostro passato, che si sviluppa eccetera, ci dà però una visione del mondo. Questo l'abbiamo ricevuto dai nostri genitori, io penso sempre a mia madre, che era completamente diversa da me, però io so che mia madre è dentro di me e che io, mentre parlo, parla anche mia madre. Questa è la realtà. Dimmi. No, ecco, io sono rimasta colpita dal personaggio di Nello, perché ho conosciuto anch'io alcuni Nelli. Sì. Ed era un atteggiamento proprio legato a un urlo d'amore, esatto. Di attenzione. Esatto. E soprattutto verso un padre fascista che doveva rappresentare il maschio, l'uomo, l'ideale, esatto. Di quel periodo, e quel bambino non si sentiva così e non riusciva neanche in Italia, non riusciva a fingere. Quindi qui nasce l'odio, nasce la sorella. E la sorella, nella sorella, vede una persona più debole di lui, perché anche certamente, più piccola, e sulla quale può infierire, può far vedere chi è ancora e sempre un richiamo d'amore. Certamente. E questo se l'è portato per tutta la vita, tutta la vita. Cioè, io ho avuto degli esempi proprio di amicizia, difficili anche, molto, perché sono persone molto introverse e molto infelici anche. Molto infelici, pretendono molto, molta attenzione. Esatto. E rancorosi, non perdonano una disattenzione, una qualche, esatto, cosa, perché è proprio un motivo. Quindi se Nello ha trovato una compagna, sì, questa compagna chiaramente doveva essere una persona che sapeva ascoltare i suoi silenzi e i suoi anche improvvisi, sì, cambi, sì, di umore, quindi erano state in sintonia, quindi lei o era estremamente generosa nell'affetto oppure era molto simile a lui, quindi sì, ma c'è un fatto fondamentale che lui, Nello, ha conosciuto il padre di questa donna che lui ammirava, la prima volta che lui ammirava, perché lo devo dire, era un partigiano, era un ex partigiano, esatto, comunista, quindi era l'ideale che lui, esatto, non aveva trovato a caso. Ecco perché lui alla fine viene fuori una scena in cui le dice: io adesso vado a Milano, vieni con me. Non aveva fatto nessuna dichiarazione d'amore, così semplicemente perché era la figlia, certo, perché di questo, il partigiano, sì, rappresentava l'ideale, esatto, una persona che, esatto, lotta per un ideale. Esattamente, esatto. Mi sono sbagliato, se non voglio entrare nel merito, non è questo. E mentre il padre, no, il padre subiva, aveva sposato un regime per opportunità, per il lavoro, ci sono mille motivazioni, certamente, però per lui è, certamente, quindi, quello era il ideale, quindi poteva essere la sua via di fuga, il suo volo. Ma tu hai letto il libro perché lo stai analizzando? No, ma che brava! Ma veramente brava! Mi interessano un po' sempre il fascino di questi personaggi, questi tenebrosi. Sì, sì, sì. Hanno una retroscena molto pesante. Sempre molto interessanti, perché sono persone, certo, che, certo, sanno vivere benissimo da soli. Sono persone che però chiedono molto, sono un po', certo, come dei Dracula, certo, dei vampiri, poi, perché, sì, sì, in ma un rapporto pretendono molto, quindi devo dire, questa donna che ha vissuto con lui tutti questi anni, è stata particolarmente Dracula, molto simile a lui, estremamente ricca, empatica, sì, capace di accettare, capace una persona simile, di accettarlo, che è vero, perché esisteva effettivamente il questa titolo, donna. Titolato Una donna anziché Anello, è una piccola vendetta della sorella che dice: no, voglio essere io su quel titolo, non mio fratello Anello, anche è se vero, è un personaggio che sicuramente ha fatto. Lei è complice. Sì, sì, sì, beh, chiaro. Sono sempre colpevole, questo è chiaro. C'è qualche, prego, altra domanda? Volevo semplicemente dire qualcosa. Prego. A proposito dell'ultimo brano che è stato letto, quello della maternità mancata, cioè questa donna si sente colpevole di non essere riuscita. No, non è colpevole. Però da quello che è stato letto mancava la presenza dell'uomo, perché la donna da sola non è tra l'uomo. Però dell'uomo forse nella trama del racconto si No, ma lei non si sente colpevole. Doveva contribuire in un senso dell'altro, se c'è delle problemi particolari. Sì, ma una donna deve anche volerlo. Diciamo così, lei acquista il libro, così la prossima volta ha più elementi, ecco, per... No, non è così, lei non si sente affatto colpevole, no. No. Non era... No. Bene. C'è qualche domanda ancora? Ci sono... Se non ci sono altre domande, vi ricordo che il libro è in vendita, là c'è anche la possibilità di avere il lusso di un autografo, vero? Anche, se ci tengono. E ringraziamo ovviamente l'autrice per il libro e per la sua presenza, voi ovviamente per essere stati in nostra compagnia, Alessandra Limetti per le letture, grazie. E... Io ringrazio.